famiglia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Benvenuti da Valentina Furlanetto a questa puntata di Indovina chi viene a cena. Come sempre partiamo da un insert di questo film del 1967, Indovina chi viene a cena, che poneva il tema dell'integrazione fra culture diverse in un contesto completamente differente da quello di oggi, tra l'altro in America. Noi siamo in Italia, parliamo quindi dei nuovi italiani, italiani che sono arrivati da altri paesi oppure che sono nati in Italia da genitori stranieri. In questo caso abbiamo il piacere di aver invitato a cena Radio 24 Filippa Lagerbach. Grazie dell'invito, grazie mille. Grazie a lei di essere con noi per cena, perché quest'oggi cucineremo insieme un paio di ricette. Filippa è un personaggio televisivo conosciuto dal grande pubblico perché accompagna, affianca Fabio Fazio a Che tempo che fa, e quindi tutti noi la conosciamo soprattutto per questo. Svedese di nascita, italiana di adozione. Che cosa cuciniamo oggi? Ah, allora io devo portare un po' dei miei sapori dal nord, no? Sì. Quindi adesso sono anche molto discusse le famose polpette di carne svedesi, però ovviamente io le faccio con le mie manine, con la ricetta della nonna, perciò non c'è niente di scandaloso nelle mie polpette, solo sapori originali e insomma sapori veri del nord, perciò le famose polpette svedesi, che diciamo la verità noi italiani siamo abituati a mangiare all'IKEA. Esatto, e ovviamente mi sto riferendo allo scandalo ultimamente, che non so se adesso ci sarà una diminuzione della mangiata di polpette in Italia, però riprenderanno sicuramente perché sono buonissimi. Sì, ci stiamo riferendo alla carne di cavallo contenuta. Esatto, siccome il mio nome è Filippa, vuol dire amante dei cavalli, di carne di cavallo nelle mie polpette non si troverà traccia. Polpette che quindi sono, al di là dell'IKEA, diffuse in Svezia come piatto. Sì, credo che sia un nostro piatto nazionale, si mangia spesso, volentieri, tutti sanno farli. Veramente. Ed è sempre accompagnato da quelle salsine che troviamo appunto all'IKEA, quindi una marmellata e una salsa. Sì, poi anche una salsa a base di panna, è un po' marroncina, no? Che si usa accompagnare con le patate lesse bollite, e io dovevo sempre da piccola mettere sulle patate le 5:30, era proprio tradizione che aiutavo a cucinare, stava tornando mia mamma dal lavoro e io l'aiutavo mettendo sulle patate, perché le patate era la base della nostra cucina tutti i giorni, come per voi la pasta, invece noi le patate, mirtilli. Quindi sono i gusti del suo paese. Andavamo a raccoglierli nei boschi, quindi è un altro ricordo, mi pagavano 20 centesimi al litro e i mirtilli sono piccolini, quindi ci vuole molto tempo per arrivare a fare un litro, però io e mio fratello andavamo a raccogliere questi mirtilli che poi mia madre faceva la marmellatina di mirtilli. Quanti anni aveva quando faceva queste cose in Svezia? Ma dai 5 anni in su, insomma. Perché lei abitava a Stoccolma. Sì, a Stoccolma, ma 10 minuti da Stoccolma siamo già in campagna, siamo già con i boschi che ci circondava la casa, e quindi si usciva e si faceva queste passeggiate a raccogliere i funghi, i mirtilli rossi e mirtilli e ad altre cose, quindi molto a contatto con la natura, una bella infanzia, dei bei ricordi. Ho letto in un'intervista che ha rilasciato qualche tempo fa che andava a scuola a piedi o in bicicletta, quindi da sola. Sì, ma così sembra che ho 100 anni, però le cose forse erano diverse, ma a 5 anni eravamo già un gruppettino di di amichette che andavamo da sole a scuola, all'asilo e così via fino, insomma, sempre. Poi da 9 anni in poi si poteva anche andare a scuola in bicicletta e quindi una libertà acquisita fantastica, mi sentivo già grande a 9 anni poter avere il mio primo mezzo, quindi adesso sono sempre promotrice dell'uso della bicicletta anche qui, anche a Milano, anche in città. Più che sembrare lei più vecchia di quello che è, ma la vediamo in televisione, è vecchia affatto, sembra distante la Svezia e Stoccolma dall'Italia, dove probabilmente non tanti bambini vanno a scuola a piedi, forse anche una differenza culturale, no, del lasciare un po' più liberi i figli. Può essere, però credo che adesso vedo io con mia figlia che ha 9 anni e mezzo, io penso di accompagnarla fino a 20 anni perché è veramente pericoloso, la città è grande, il traffico è veramente, ci sono dei pericoli, vedo io stessa che le macchine non si fermano neanche alle strisce pedonali, quindi come si fa un bambino, lo lasci da sola, vorresti lasciare più indipendenza e farla crescere più velocemente, ma è veramente pericoloso, io non voglio essere quella che col figlio ammazzato perché voleva darle più libertà, no? E infatti ci vuole un po' più di buon senso da tutti, da chi guida, da chi cammina, insomma è andata un po' a perdersi il rispetto al prossimo e spero di riuscire in qualche modo a ritrovarlo, a recuperarlo, perché è questo che manca nella società, perciò dobbiamo ovviamente curare sempre di più i nostri figli perché c'è sempre tanti pericoli, insomma, purtroppo. Quindi, poi andremo anche sì, alle la sue... differenza tra Svezia e Italia c'è, però c'è anche la grande città, forse in campagna è un pochettino diverso. Poi andremo anche al suo impegno ambientale per l'ambiente e anche sociale, andremo a parlare di questo, ma veniamo ancora agli odori, ai gusti, ai ricordi, no, di questa Svezia. Leggevo che le giornate o erano infinite perché buie o infinite perché piene di sole, in effetti è un modo di vivere completamente diverso, l'approccio anche con Milano, con l'Italia sarà stato molto diverso per il tipo di vita. Ma sicuramente mi ha attratto moltissimo il fatto di vivere qua, vivere in Italia, anche per il clima, per il sole, però sicuramente non è stata la scelta fondamentale. La scelta per me era l'avventura di uscire fuori dal mio paese, di scoprire il mondo, avendo anche la possibilità, grazie al lavoro che facevo già subito dopo il liceo, che era la fotomodella, ho girato tutto il mondo. E poi 10 anni fa ho trovato l'amore e guarda caso con un italiano e ho creato la mia famiglia, la mia casa qua e io amo stare in Italia, un paese che adoro veramente, quindi mi sento appunto italiana e difendo l'Italia, gli italiani ovunque vado, quindi e poi ovviamente sono anche un po' svedese, questo è chiaro, sono le mie radici. Torna spesso in Svezia, a Stoccolma? Abbastanza, diciamo un paio di viaggi all'anno sono fondamentali anche per far sì che mia figlia cresca sentendosi anche un pochettino svedese, questo sì, e lei parla svedese e si esprime, ha capito che questo potrebbe essere il nostro codice segreto, quando non vuol far capire agli altri cosa sta dicendo, mi parla in svedese, questa è una cosa bella, e così riesce anche a comunicare con i nonni, con i suoi cuginetti in Svezia, ed è bello, bello farla scoprire anche la natura, il modo di essere al nord, mischiato con la cultura italiana, credo che i figli multiculturali hanno un'apertura diversa verso il mondo e verso le altre persone. Anche in cucina immagino che ci siano a casa vostra delle contaminazioni fra culture. Sì, faccio soprattutto il piatto unico, non è che sto lì a fare i primi, secondi e contorni, invece come da noi si serve tutto su un unico piatto, che può essere, no, patate con la carne, con la verdura e l'insalata, insomma, tutto servito così. E si sono abituata anche i miei, quindi, e poi ovviamente ho imparato dai vostri sapori, i vostri gusti. A friend is not a means. You utilize to get somewhere. Some hearted notice. Friendship is an end. What do you know? It happened again. Ma ci sono dei gusti italiani che, contro i quali aveva un pregiudizio magari quando è arrivata? Avevo un pregiudizio perché in Svezia veniva servito completamente sbagliato, e quello per esempio era il risotto. Noi a scuola mangiavamo il risotto, ma era come un'insalata di riso, non era legato, non era cremoso, era proprio come, esattamente come l'insalata di riso. Quindi io mi ricordo quando sul menù a scuola c'era il risotto, io proprio non andavo nemmeno a mettermi in fila perché era una cosa insopportabile. E quindi arrivata a Milano dicevano: ah, facciamo un bel risotto milanese. Ho detto: no, per carità, io non lo voglio neanche vedere. E poi quando è arrivato in tavola, io ho detto: ma questo cos'è? È il risotto. Ho detto: no, risotto è un'altra cosa. E quindi pregiudizi, perché ovviamente per me era stato presentato in un altro modo. Come da noi a volte si serve il primo, gli spaghetti insieme al filetto, insieme a una salsa con la panna, e voi ovviamente non lo potete sopportare. E lo capisco adesso, sto diventando molto italiana quando sono in Svezia e mi critico, no, questi aspetti del cibo, dei sapori, oppure quando sbagliano a dire, non so, scrivere i nomi in italiano, e poi sono un pochino più svedese quando sono qua in Italia. Vabbè. E verso gli italiani immagino che anche lei avesse le sue idee, no? Adesso le ha cambiate. Ci sono delle frasi che ho letto sempre di sue interviste passate, in cui ci definiva molto passionali, pieni di gioia di vivere, di amare la vita. Io ho pensato: caspita, che ottimista. Però in fondo siamo anche diversi, siamo anche come popolo così un po' di bugiardi, c'è molta corruzione, insomma non mi dipingerei così ottimisticamente, però la sua visione invece è più ottimistica, mi sembra. Ma tendo di essere ottimista e positiva nella vita, io tendo di sottolineare i pregi e non i difetti. Credo che così si può partire con una base di positività per migliorare le cose, poi chiaro, quindi ci vede veramente così. Ma mi dice molto giù, però un difetto, sì, è questo, siete molto autocritici, però guai a sentire le critiche da qualcun altro che non è italiano, quindi faccio anche molta attenzione. Quindi autocritici, sì, ma molto permalosi, mi pare di capire. Direi che siete abbastanza. Invece tra... una parola che ho imparato in Italia che non conoscevo, il significato di permalosità non conoscevo prima di arrivare in Italia, quindi sì, siete abbastanza permalosi. Perché in Svezia meno? Credo di sì. Abbiamo altri difetti noi, ci mancherebbe altro. Ad esempio, però... un pregio e un difetto che da lontano, da italiana ormai, vedere il suo paese? Allora, lo svedese è molto trasparente e diretto. Quello che dice è quello che intende di dire. Non produce miliardi di parole per dire una cosa, invece lo dice direttamente. Un difetto che è chiuso, può essere un po' depresso, non lo so, forse ha a che fare con il clima, con come viviamo noi, manca pure appunto questa gioia che si vede negli occhi degli italiani, la curiosità. Noi facciamo i fatti nostri e basta, invece qua uno comunque è curioso di sapere il prossimo, forse un po' gossipara, non lo so, chiacchierone, però fa sì che una tavolata con gli italiani è accogliente, è rumoroso, però si sta bene, si vive, si brinda, si mangia. Invece da noi addirittura i miei mi dicevano che quando si mangia la bocca deve rimanere chiusa, nel senso non si parla durante il pasto, si parla dopo. che significa una cena abbastanza triste, o no? Tutto in silenzio, e poi quando abbiamo finito tutti quanti, allora lì si può un po' chiacchierare, parlare di quello che è successo durante il giorno. Ci vorrebbe una via di mezzo, insomma, direi da qui alla Svezia, in Olanda più o meno, ecco. Sì, sì. E lei come madre, come persona, tende a, ad esempio, a replicare il modello svedese o italiano per sua figlia? Ma un miscuglio, credo, un miscuglio. Noi siamo una via di mezzo, come dicevamo. Sì, sì, esatto, siamo olandesi. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Svezia, famosa in Italia per dei gran luoghi comuni, direi. Allora, abbiamo citato l'IKEA, devo citare gli ABBA, gli scrittori svedesi di gialli e il welfare state. Non le dà un po' fastidio che vengano ripetute sempre queste cose quando si parla di Svezia? Ma no, sono cose belle comunque. Ma rispecchiano il paese? Brutte. Poteva esserci anche il suicidio e le donne facili, e invece quella magari potrebbe dar fastidio. Invece le cose che ha detto credo che rispecchiano abbastanza, anche se è un paese che sta cambiando come tutti i paesi. In meglio o in peggio sta cambiando? Ad esempio noi non c'è servizio giornalistico sul welfare italiano che non ci ricordi quanto siamo distanti dal welfare state dei paesi nordici. Questa cosa mi colpisce sempre molto di un personaggio come lei che viene dai paesi del nord e che viene in Italia. Immagino che sia un bello shock. È uno bello shock dopo anni che uno sta qua, perché all'inizio magari uno non pensa mm-hmm. neanche di rimanere. Devo dire che quando ero piccola, adolescente, insomma, lo Stato per me era una sicurezza, una rete di sicurezza, lo è sempre, ci si fida completamente, sia la politica è una cosa davvero importante e non sporca, appunto, trasparente. Qua siamo andate un po' a perdere la fiducia nella politica e nei politici, questo è un peccato sicuramente. E forse ci sono anche dei motivi per cui si sono perse inchieste, scandali e quant'altro. Tra l'altro è un'economia eccezionale, rapporto debito pubblico PIL del 38% quando in Italia superiamo il 100%, tanto per farci del male, come dicevamo prima, no? E molte attività a sostegno delle persone più povere. Leggevo poco fa di un hotel homeless proprio per le persone senza fissa dimora. Lei è attiva anche dal punto di vista sociale dell'ambiente, vedevo che è molto impegnata con questa associazione Genitori Antismog. Genitori Antismog è un'associazione nata per poter sensibilizzare le persone sui livelli di smog o di inquinamento nella città, ma anche per avere delle modifiche, avere delle restrizioni, avere il fatto che il governo o chi ci insomma governa debba fare delle cose per migliorare la situazione. Si tende qua un po' di buttare la colpa sugli altri, sì però sì, ma però è un po' di sforzo, ognuno lo possiamo fare sicuramente. E le cose, ma dei piccoli cambiamenti che magari non costano così tanta fatica. Sto pensando smarrito che cosa potrei fare. Immagino mio padre che si arrampica sul tetto perché non vuole perdere lavoro e dignità, però ci resta troppo tempo e noi sempre là sotto. Ti mando un bacio adesso, vedrai che servirà. Serve immaginare per comprendere. Da molti anni la vediamo a fianco appunto a Fabio Fazio, l'abbiamo detto prima. Forse uno spazio che alcuni ritengono un po' limitato, nel quale non è cresciuto il suo ruolo, insomma. Ma ho letto che lei sia contenta. Ma è esatta questa definizione? Se la conferma questa frase che ho letto in un'intervista? Sì, lo confermo nel caso del programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, dove dall'inizio il mio ruolo sarebbe stato quello della presentatrice degli ospiti, è rimasto così, ma non è mai stato pensato di un cambiamento, quindi io lì sono fortunata di poter partecipare, poter vedere tanti personaggi importanti che vengono, che si esprimono e vedere come lavora da vicino Fabio, Luciana e tutta la redazione. Dopodiché ero convinta di potermi esprimere in altri contesti e così è stato, tant'è che ho condotto per 36 puntate quest'altra trasmissione che si chiama Daz Italia. È stata anche al Festival di Sanremo da poco. Vabbè, è una piccola partecipazione emozionante, è davvero bellissima, che ricorderò per sempre, perché è un palco così famoso, un palco storico, insomma, ed è stata una bella esperienza, grazie a Fabio ovviamente che mi ha dato questa opportunità. Con piccoli passi, imparando sempre qualcosa in ogni occasione, si può arrivare dove uno, è importante fissarsi degli obiettivi, no? E non pensare. E qual è il suo obiettivo? Obiettivo di poter lavorare in televisione, poter presentare dei programmi e lo sto facendo, su Rai 3 faccio una piccola partecipazione, ma in altri contesti mi danno un ruolo più importante dove io posso esprimermi maggiormente, dove posso anche prendere tutto ciò che ho imparato durante gli anni con Fabio e soprattutto la preparazione quando si ha davanti un ospite, una persona, essere preparati sull'argomento e sulle cose da dire e sulle cose da chiedere. Giusto per non essere così buoni sempre, volevo sì. Un difetto di Luciana Littizzetto e un difetto di Fabio Fazio a questo punto, giusto per smontare l'immagine di buona che ha. Vabbè, il difetto di Fabio è che non fa sport da 30 anni e ne è orgoglioso del fatto che non lo faccia. Quindi io lo trovo un difetto ovviamente, però fa parte del suo carattere anche, allora io corro e faccio sport anche per lui. Luciana, che dire, ha difetti? Non lo so. Io non mi sembra. No, questo è troppo buonista, però un difetto ce l'avrà. Ma io sono buonista, l'ho detto già prima che sempre veramente cerco di parlare di pregi e non dei difetti, quindi io non chi sono io a criticare gli altri, non mi sembra giusto. Luciana è perfetta. Però senza nessuna bellezza, c'è solo della gente da difendere e tutto qua. Va bene, adesso sentiamo le ricette. Köttbullar o polpette svedesi della nonna. Ingredienti per 6 persone. Per le polpette, 500 g di carne di manzo macinata, una cipolla, una zucchina, mezzo peperone rosso, un uovo, un terzo di bicchiere di latte, 3 cucchiai di pan grattato, spezie a piacere, sale, pepe, noce moscata, origano, sale, pepe e olio d'oliva. Ingredienti per la salsa Brunsos: 30 g di farina, 50 g di panna per cucinare, 1 litro di latte, 250 g di sugo, acqua unita al sugo di cottura delle polpette, un dado di carne, un cucchiaio di soia. Per la salsa di mirtilli rossi: 100 g di mirtilli rossi, un cucchiaio di miele, salvia, basilico, rosmarino, origano, prezzemolo, noce moscata, 3 spicchi d'aglio, 4 cucchiai d'olio extravergine di oliva, mezzo bicchiere di acqua, un cucchiaio di farina 00, sale. Per prima cosa, preparare la salsa di mirtilli rossi mettendo la frutta fresca e pulita nel mixer con pochissima acqua e un cucchiaio di miele. Mixare fino a ottenere una salsa che farete bollire con mezzo bicchiere d'acqua per pochissimi minuti. Passare al colino fine la salsa per eliminare bucce o semi residui delle bacche. Nell'attesa che raffreddi, tritare le erbe con l'aiuto della mezzaluna. A questo punto, versare l'olio in una padella, unire la farina e l'aglio. Dopo circa 2 minuti, aggiungere il trito e dopo ulteriori 2 minuti, integrare con la salsa i mirtilli. Ora, preparate le polpette. Tagliate finemente la cipolla, affettate il peperone in pezzetti molto piccoli e grattugiate la zucchina con la maglia più larga della grattugia. Poi mescolate le verdure in una ciotola con l'uovo, il latte, il pan grattato, sale, pepe e spezie. Aggiungete la carne macinata e lavorate l'impasto per amalgamare bene il tutto. Quindi formate tante piccole polpette tonde e saltatele in una padella con l'olio. Aggiustate di sale e di pepe. Per preparare la salsa, mescolate in una casseruola la farina, la panna e una parte del latte. Quando il composto si comincia ad amalgamare, aggiungete il resto del latte mescolando bene. Aggiungete 250 g di acqua calda e il sugo che si è formato dalla rosolatura delle polpette. Mettete ora il dado e la soia mescolando bene. Lasciate bollire il tutto per un paio di minuti. Poi abbassare il fuoco e mescolate per altri 3 minuti circa. Servire le polpette con la salsa, le patate lesse e la salsa di mirtilli rossi. La puntata di oggi termina qui. Io ringrazio moltissimo la nostra ospite Filippa Lagerbach, buona, buonista e soprattutto positiva. Grazie per essere stata con noi, buon appetito. Grazie mille, buon appetito a voi. Peter Bescapè in regia, Valentina Furlanetto al microfono, la puntata termina qui, ricordate che i gusti cambiano. You've got to give a little, that's the glory of love.